Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Le province di Bologna e Firenze sono ora più vicine. È stata inaugurata, infatti, dopo circa un decennio di lavori, la variante di Valico. Il progetto, realizzato da Autostrade per l'Italia, rientra nel piano di ammodernamento della A1 nel tratto Bologna-Firenze e si estende attraverso l'Appennino tosco-emiliano lungo 59 chilometri, di cui 32 proprio in variante, creando per quel tratto una sorta di strada parallela alla A1. Chi deciderà di effettuare questo nuovo percorso si troverà ora a viaggiare lungo una grande S d'asfalto con due corsie per senso di marcia, più una d'emergenza, che grazie a un sistema di 41 gallerie e altrettanti viadotti permetterà di compiere un viaggio più veloce, agevole ed economico. Non è ancora tempo di bilanci, ma secondo le stime diffuse da Autostrade per l'Italia saranno gli autotrasportatori i principali fruitori della variante. Si prevede infatti che circa il 90% del traffico pesante passerà di lì. Migliorando le condizioni di traffico, sarà possibile così risparmiare sui tempi di percorrenza e sui consumi di carburante. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Come avete ascoltato dalla scheda iniziale, oggi parleremo della variante di Valico, l'opera inaugurata qualche settimana fa e che dovrebbe rendere più agevoli gli spostamenti tra Firenze e Bologna, un tratto della A1 particolarmente difficile soprattutto per il trasporto pesante. 24 anni per avere le autorizzazioni, 9 per realizzare l'opera, un capolavoro di ingegneria con le sue 41 gallerie realizzate grazie ad una fresa davvero particolare dal diametro, pensate, di 15 metri. Di quest'opera e soprattutto dei suoi effetti sul mondo della movimentazione delle merci parliamo in compagnia dei nostri ospiti. Vi presento il primo, l'ingegnere Alberto Selleri, direttore investimenti e infrastrutture di Autostrade per l'Italia, che quest'opera tra l'altro l'ha seguita fin dalla sua progettazione. Ingegner Sellere, innanzitutto, perché tutto questo tempo, soprattutto per la fase autorizzativa? Beh, la fase autorizzativa in Italia sappiamo che dura sempre tantissimo. La variante di Valico è stata un'opera che nella sua fase iniziale ha avuto parecchie evoluzioni. C'è stato a un certo punto, si era parlato solo della variantina, che era solo un pezzettino, fin tanto che è stata sbloccata l'ultima autorizzazione, noi l'abbiamo avuta nel 2006. Ecco, poi c'è stato un tempo per la sua realizzazione e 9 anni credo che siano un tempo sufficiente, quasi normale oserei dire, per un'opera del genere. Sì, diciamo che un'opera di questa complessità, realizzarla in 8-9 anni, quanto ci abbiamo messo l'ultimo pezzo, è sicuramente un tempo congruo. È un'opera difficile in un territorio molto delicato, con caratteristiche uniche in tutta Italia, sicuramente in Europa. Certo. Quando è nata l'idea della variante di Valico, il progetto si chiamava camionale, perché era pensato per spostare una quota di traffico pesante. Riuscirà in questo obiettivo? Lo chiediamo ad Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti. Ma io reputo che è un'infrastruttura che più di 30 anni che aspettavamo, oggi com'è funzionale, com'è stata strutturata, abbia dato un valore aggiunto al mondo dell'autotrasporto. Io l'ho percorsa con l'autovettura poco tempo fa e la struttura è molto snella, scorrevole, soprattutto raggiunge una quota inferiore a quella che era, diciamo, la quota prima dell'Appennino, e automaticamente sicuramente l'autotrasporto entrerà a avere una maggior sicurezza e sicuramente finiremo quei serpentoni a cui eravamo obbligati fino a poco tempo fa. A proposito di serpentoni, ingegner Selleri, il vecchio tracciato sarà abbandonato o continuerà a vivere? No, il vecchio tracciato continuerà a vivere, rimarrà funzionale e potrà essere percorso da chi vuole non percorrere lunghe gallerie, ma vuole percorrere una strada più panoramica. Ecco, quindi c'è una scelta soprattutto per gli automobilisti a questo punto, visto che per l'autotrasporto quella della variante è quasi una scelta obbligata. A proposito di autotrasporto, Genedani, l'area tosco-emiliana, che lei tra l'altro conosce molto bene, è un po' il cuore dell'autotrasporto italiano. Quali sono le prospettive per questo settore dopo le tante novità contenute nell'ultima legge di stabilità? Ma io spero che ci sia quella ripartenza che oggi stiamo già assistendo, e quindi ci sia una spinta maggiore su quelle regole che sono contenute anche nella legge di stabilità. Ci auspichiamo che le merci continuino e in Italia si continui a riprendere, che ci sia questa continua ripresa che assistiamo, lenta ma c'è, e automaticamente è venuta a fagiolo la presentazione e l'inaugurazione di questa infrastruttura che collega il nord e il sud Italia, perché è sempre stato il punto nevralgico del collegamento nord e sud. Certo, ingegner Selleri, l'utilizzo anche di questa superfresa, addirittura leggo un diametro di 15 metri, un'idea italiana ma una realizzazione tedesca, ha contribuito anche alla velocità di questi lavori? Sì, diciamo che la fresa è stata utilizzata nella galleria Sparvo, una delle gallerie più complesse, è una fresa che ha un diametro di quasi 16 metri, perché 15 metri e 60. È stata realizzata in Germania, ma la parte progettuale, soprattutto per l'utilizzo di queste macchine in materiali come quelli dell'Appennino e soprattutto in presenza di gas, è stata fatta in Italia, quindi di questo ci prendiamo i meriti. Beh, un piccolo gioiello italiano che sicuramente farà scuola, perché suppongo che sarà utilizzata anche in altre parti d'Italia e d'Europa questa fresa. Sì, diciamo che abbiamo individuato una metodologia importante e già la stiamo cominciando a, è già ipotizzata per altre gallerie, quella tra la Barberino Firenze Nord, che cominceremo a realizzare alla fine di quest'anno, ha lo stesso diametro e nelle stesse caratteristiche di materiali, ha la stessa tipologia di macchina, e quindi è una macchina che verrà utilizzata, la stessa tipologia verrà utilizzata in altri ambienti. Certo. Genedani, siamo in chiusura, un'ultima battuta, così come questa fresa eccezionale, anche l'autotrasporto italiano vuole a suo modo essere eccezionale, e probabilmente con l'ultima legge di stabilità c'è una svolta sul fronte della sostenibilità ambientale molto, molto importante. Dobbiamo aspettarci, come dire, una crescita sempre più sostenibile anche di questo settore? Io reputo che non ci sia ombra di dubbio, quello che è la spinta della legge di stabilità, io penso che sia una scommessa che stiamo portando avanti, e quindi automaticamente gli obiettivi debbono essere raggiunti. Sul fronte ambientale sicuramente c'è dei finanziamenti importanti per l'acquisizione di nuovi veicoli Euro 6, quindi con la massima ecologia conosciuta al giorno d'oggi. Oltre a questo c'è il mare bonus e il ferro bonus, quindi la possibilità di avere degli incentivi per salire sulle navi e sulle ferrovie, quindi automaticamente stiamo spingendo su quello che è il rispetto dell'ambiente in modo importante. Bene, termina qui anche questa puntata di Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Vi ricordo anche il nostro indirizzo email container@radio24.it. Il nostro appuntamento ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli